Ci serve un personaggio. Ci serve un personaggio, uno grande, uno vero, uno puro, più grande che vero, più vero che dal vero. È la storia di personaggio, un personaggio grande come un secolo, quale l'ultimo? L'ultimo. Che sia straniero, italiano, nato intorno al 1880 e che abbia spirito di iniziativa e che abbia spirito d'avventura. Per diventare un eroe del secolo, per diventare un eroe del popolo. Madre Imelde, padre Oreste, che lo hanno dotato di 5 nomi: Charles, Pierre, Jean, Guillaume, Thimbaud, Carlo, Pietro, Giovanni, Guglielmo, Tebaldo. Ponzi. Ponzi. Papà, piccolo impiegato postale a Parma. Ma mamma, ah mamma, mamma. Mamma dice che lei è di sangue blu, mamma. Di sangue blu, mamma. E che questo è passato nel tuo sangue, Carlo. Imelde Ponzi, la madre. Mio padre, mia madre e i loro parenti, tutti hanno portato il titolo di don o donna. Don Antonio, don Giovanni, donna Teresa. I tuoi antenati, figlio mio, a Parma, venivano chiamati don o donna. Tu non li hai conosciuti, ma sei della loro stessa razza. Oh, li assomigli. Non sei della razza degli impiegati delle poste. Tuo padre, d'altronde, è un marito meraviglioso. Io che non avevo per dote che la reputazione della mia grande famiglia parmigiana. Roma. Tuo padre è morto. Pazzi all'anima sua. Con l'eredità di tuo padre, eredità modesta, eredità ad immagine di tuo padre, tu avrai, se spendi avvedutamente, di che provvedere alla tua vita e ai tuoi studi, perché la vita a Roma dà alla testa più della vita a Parma, ma la più grande università, perché è la più antica, si trova a Roma e si chiama La Sapienza. La Sapienza. E se tu vivi a Roma con sapienza, avrai ma giusto giusto di che provvedere alla tua esistenza, ma giusto giusto. E a Roma si sa, la vita è dolce e chi si somiglia si piglia. Tu sei di nobili origini, ma giusto giusto. E dalla sapienza, dalla mente, tu uscirai fornito del sapere di giustizia. E i tuoi nuovi amici a Roma hanno l'arte di vivere con dolcezza, perché colui che domina il diritto e la giustizia non deve temere i caprizi della sorte. L'arte di spendere con gusto, l'arte di dormire quando diventa giorno. Carlo, portami all'opera. Charles, questa collana è il mio sogno. Sai cosa sei? Sei un signore. Pagami un gelato e dello champagne. Sa stabilirsi, stabilizzarsi. Charles, con te ci si diverte. Sai sperperare fortuna al gioco come un granduca. E condurre in porto come nessuno i suoi affari sulla terra. Tu sei un compagno prezioso. Carlo, con te ci si diverte. La vera grandezza si misura con la generosità delle proprie manze. Perché bisogna ammettere che fino ad adesso la vita nei nostri confronti non si è comportata con giustizia. Pagami un gelato e dello champagne. Leggendo una lettera. Mia carissima madre, sappi che mi appassiono le materie che mi insegnano qui all'università. Supero gli esami con successo e sarò presto laureato alla Sapienza e anche con onore. Credo di poter dire che i miei professori sono molto contenti di me e la sola cosa che mi manca è la gioia di stringerti sul mio cuore. Un'altra lettera. Mia carissima madre, ti confesso che la mia situazione è delle più compromesse. Molto presto non avrò più un soldo, nemmeno per pagarmi la camera. E per quanto riguarda i miei studi, è un fallimento. Non mi laureerò mai alla Sapienza, né quest'anno né mai, ma tu devi sapere soprattutto che il disonore personale che questo fallimento mi procura è niente nei confronti della vergogna di non essere stato all'altezza delle speranze che tu avevi riposto in me. Benissimo. Come vuoi tu, progenie? Ti fideremo a tuo zio e vedrai che la scala la salirai, ma è un gradino per volta e cominciando dal più basso. Sono tuo zio e cominci davvero ad esasperarmi, nipote mio. C'è da chiedersi di quale dinastia tu ti senta di far parte per rifiutare questo perfetto primo piccolo impiego. Ma vuoi che ti spieghi come funziona? Fai il difficile. L'impiegatino in un ufficio no e poi cos'altro? Tenti la fortuna, giri il mondo, ti consuma, torni spennato senza aver trovato niente, guadagnato niente, imparato niente e nel migliore dei casi sei ben felice di scovare un incarichino di impiegatino molto meno dorato del precedente. Allora tanto vale guadagnare tempo. ma si dà il caso che anche per quanto riguarda il tempo tu non vai a spese. Credo che l'unica soluzione che ci rimane, visto la tua aristocratica ostinazione, è di mandarti in America, là dove vanno frotte di italiani poveri e ignari. Tu sei povero, ma non sei del tutto incolto, cosa che una volta arrivato lì dovrebbe darti un certo vantaggio sulla massa dei tuoi compatrioti. Non vedo altro modo per cercare di rimettere a posto la tua situazione e di risollevare un po' la fierezza di tua madre, perché adesso ci dobbiamo occupare di far coincidere queste due cose. Il transatlantico Vancouver, il 3 novembre 1903, 430 piedi, 5.000 tonnellate, Napoli, Boston, via Azzorre, 2 settimane, 2.000 persone a bordo, un biglietto da $25, $200 in tasca. Ci sono italiani del sud, greci, russi, spagnoli, polacchi, irlandesi, bulgari, persiani, mongoli, austriaci, portoghesi imbarcati dalle Azzorre. Viaggi per $25 nell'interponte dei miserabili. Le cuccette le immagini tra tubi di metallo, materassi di tela riempiti con le alghe, la testa su un giubbotto salvagente, il cibo poco commestibile, l'acqua salata che aumenta la sete, una piccola zona per prendere aria, sopportare un rollio del diavolo, mandar giù un fumo nerastro e restare così giorno e notte a speculare sull'America, in un'atmosfera insalubre a base di sudore, di grasso, di spazzatura, di piscia, di merda e di vomito, vero Ponzi? Non sono al mio posto, non sono di questa razza. Sono un italiano del nord. So che per $20 in più navigherei in seconda classe. Allora, $20 li sgancio? $20 sì, no, me li tengo, $20. Ma certo che li sgancio, con me ci si diverte, mi offro il ponte superiore, sono generoso con i camerieri. Ah, l'avarizia non è proprio un mio difetto. 17 novembre 1903. Mi avvicino al porto di Boston, con $2.50 in tasca, ma con il vestito di un grande stilista. Metto piede in America, cade la pioggia, il vento mi gela, le strade sono inondate di fango scuro. E per le mie ghette è un disastro. Boston, Pittsburgh. Non parla nemmeno la lingua. Quanto tempo per cominciare a parlare a Boston nel 1903? Alla scuola della strada mesi, anni, una vita. Muore di fame, non è resistente. Si può mangiare gratis a Boston all'inizio del XX secolo? Certo, si fruga, si raccoglie, si allunga la mano, si chiede. E dove si dorme? Sulle panchine, nei giardini. Si è felici di essere lì? Si vorrebbe che l'America non esistesse, così non se ne sarebbe mai sentito parlare. Se accidentalmente tu ti trovassi senza denari, arrivando a Boston, utilizza questo biglietto di treno per Pittsburgh. Là abita il cugino di quinto grado di un nostro cugino di terzo grado. E la famiglia, è sacra e lui ti aiuterà. Mi ha scritto tuo zio. Per stanotte puoi rimanere qui, ma è piccolo, e mia moglie ed io abbiamo un sacco di figli. Domani bisognerà andare a chiedere per il centro di accoglienza italiano. Al centro di accoglienza, la notte ti conviene dormire con tutto quello che hai. E anche così cercheranno di prendertelo. E anche se non hai niente, cercheranno di prendertelo. New York. Niente da comprare e niente da vendere. Nessuna capacità particolare, Ponzi. Nessun talento da mettere a fuoco. La gloria di non aver mai lavorato, beh, bisognerà rinunciarci. Ma è molto preferibile alla vergogna di allarmare tua madre. C'è del lavoro sulla East Coast nel 1900 e rotti. Questo ce n'è per tutti, anche per i nuovi arrivati. Ma finché non impari la lingua, sono principalmente le tue mani, le tue braccia e le tue gambe che lavorano. 4 anni di lavori manuali, deterioramento del guardaroba, una sola acquisizione notevole, la padronanza della lingua locale. Visto che nessuno qui è capace di pronunciare il mio nome correttamente, d'ora in poi non sarò più Ponzi o Ponci o Ponze. D'ora in poi sarò Bianchi. E ne approfitteremo per cambiare Carlo con Charles e cambieremo faccia, una nuova faccia. Mi lascerò crescere i baffi. E adesso finalmente forse avrò una possibilità di rifarmi un personaggio. Charles Macaroni, vieni un po' qua. Lo vedi questo sigaro? Quante mance pensi che ti servirebbero per pagarti un Winston Churchill come questo, eh? Lo senti che tabacco? È il genere di tabacco che farebbe dimenticare gli inconvenienti della ricchezza. Beh, non ce ne sono più. Finiti, è l'ultimo che ho. Li facevo venire dal Canada, figurati, da Montreal. Un immigrato italiano, un macaroni come te. Il signor Zarossi. Bisogna pensare che le cose gli siano andate anche troppo bene. Mi ha fatto sapere che la smette col commercio, e sai perché cosa? Per lanciarsi nelle banche, e sai cos'altro ancora? Mi suggerisce di mettere i miei risparmi da lui, visto che avrà un tasso imbattibile. Guarda, io gli italiani, mi piace mangiare con loro, pregare con loro, fumare con loro, ma preferisco non lasciare il mio denaro da loro. Montreal. Una volta pagato il biglietto, cosa mi resterà? Zero? No, un dollaro. Montreal. Montreal. Via Saint-Jacques, Wall Street montrealese, grattacieli in fila, banche, compagnie di assicurazioni inglesi o scozzesi, e in mezzo due italiani. Da un lato... Cordasco. E dall'altro... Zarossi. Signorina, è qui Zarossi? Il boss Zarossi non c'è? Non c'è. E lei cosa voleva? E con chi ho l'onore di parlare? C'è, ma non riceve. Lei aveva un appuntamento? Non c'è, sta andando via. Zarossi? È lei Zarossi? Sono io, ma me ne vado. Io sono Charles Bianchi, della famiglia Bianchi, a Roma, lei conosce. Come tutti. Ho un appuntamento per essere assunto da Cordasco. È qui di fronte. È uno forte, Cordasco. Cordasco è il re dei lavoratori italiani di Montreal. Se ne occupa bene del lavoratore italiano, Cordasco. Più che bene. Come un padre, gli può curare lavoro, alloggio, documenti, prestiti bancari, protezione. Sono capitato bene io con Cordasco. Da Cordasco non le potrà mai succedere niente. E allora perché qualcuno va da Zarossi? Perché non vanno tutti da Cordasco? Bisogna credere che alcuni preferiscono che succeda loro qualcosa. Cordasco è come tutti i banchieri british della Rue Saint-Jacques. Pratica dei tassi di interesse al 2%. Investe in titoli italiani che fruttano 3%, versa il 2% al lavoro italiano di Montreal e tiene l'1% per sé. E Zarossi? Zarossi offre il 6%. Mi assuma, sono coscienzioso, fidato, senza storia, sono italiano, sono cortese, ho il senso della finanza, sono appena arrivato, qui mi piace, posso esserle utile, mi assuma. Torni qui domani mattina e studi i particolari con la mia segretaria. Signor Bianchi, della celebre famiglia Bianchi? Ha una cliente. Cara signora, sappia che io conto personalmente ogni sera l'ammontare dei suoi interessi e posso assicurarle che tutto prolifera. Mi perdoni l'indelicatezza. Posso osare di infliggere alle sue dita fatate il contatto con questa penna indegna di loro? Allo scopo di far eseguire alle sue dita nella parte inferiore del nostro contratto uno di quei volteggianti arabeschi che la persona comune che non ha la gioia di conoscerla, signora, chiama molto banalmente firma. Faccio il baciamano alla cliente. Un'altra cliente. Ah, cara signora, suo marito manda di nuovo lei ad occuparsi dei risparmi di famiglia. Ebbene, gli devo un momento di sole a suo marito, perché mi permette di vederla. È doppiamente saggio suo marito. Per prima cosa, sa che sono le donne che devono vegliare sul denaro del ménage. Bene, ma questo lo sanno tutti. E per seconda cosa, è suo marito. E questo tutti lo vorrebbero, ma non tutti lo possono. Ecco, una firmetta qui, ecco. C'è da chiedersi chi, se lei o il 6% attiri di più le persone. Il 6%? Come si è arrivati a garantire il 6%? E finché ci si arriva... Più tardi si vede Zarossi vuotare una cassetta di sicurezza e riempire di biglietti di banca un'enorme borsa di tela. Ecco, non perdiamo tempo, sbrighiamoci, prendiamo quello che si può e lasciamo che gli altri se la sbroglino da soli. E purtroppo non ci sono altre vie d'uscita. A dire il vero, pensavo che le comunicazioni fra il Canada e l'Italia non fossero così efficienti. No, veramente, il tempo che ci si potesse accorgere in Italia che il denaro che avevamo fatto mandare dalla mia banca canadese non era ancora arrivato, il tempo che la notizia risalisse dall'Italia fino al Canada, il tempo che potevo guadagnare spiegando che senza dubbio era un problema dovuto alle vie di comunicazione, mi sembrava un buon calcolo. Mi lasciava un bel po' di tempo, settimane e settimane. Beh, no. Le cose sono andate molto più in fretta di quanto io non pensassi. Li segue a naso i suoi soldi, il lavoratore italiano, anche di là dal mare. Tanto peggio. In ogni caso io non posso rimanere qui. Donne e bambini, spero che mi perdoniate, ma bisogna essere coraggiosi, ma almeno voi non avete l'autorità alle calcagna. E d'altronde, se le cose si aggiustano, mi organizzerò per farvi venire in Mexico City. Fuggo portando via la borsa piena di biglietti di banca. Op! Culpe d'arme da fuoco. La segretaria si è fatta saltare il cervello. Ecco, finito. Spennati, più niente. Non un soldo, speso tutto. Ti ricorderai che un sabato mattina del mese di agosto abbiamo raschiato il fondo della cassa. Negli uffici della Canadian Warehousing Company. Non è qui il signor Fournier, cara signorina? Lei mi conosce, sono venuto spesso. Lo aspetterò nel suo ufficio. Sì, ma forse non tornerà subito. Ah, questo è il rischio. È il rischio. Nell'ufficio del direttore Damien Fournier. Sono da solo. Esamino i documenti sulla scrivania, apro i cassetti, mi impadronisco di un libretto di assegni, mi firmo un assegno, lo stacco, me lo ficco in tasca, esco. Signorina, è vero, è troppo lunga l'attesa. Non posso più aspettare, me ne vado. Ho perso il mio tempo. È il rischio. Allo sportello della Bank of Hochelaga. Mi cambi questo assegno, le dispiace tesoro? 4 biglietti da 100, 2 da 10, 3 da 1 e il resto in specie. Io le vorrò tanto tanto bene. 4 biglietti da 100 è possibile. Non importa, anima mia. Mi accontenterò di 42 biglietti da 10, 3 da 1 e il resto in spicci. Subito, signore. Poi acquisto dei vestiti, molti vestiti, per $205.46. Il signor Bianchi? No, Clement. Lei non è Charles Bianchi? No, mi chiamo Clement. Io sono il detective John McCall. E va bene, sono colpevole. Lei è sospettato di aver riscosso fraudolentemente un assegno in nome di signor Damien Fournier, direttore della Canadian Warehouse Company. Sì, sospettato, accusato, condannato, punito. Guadagniamo tempo. Sì, sono io, sì, sono colpevole, sì, mi chiamo Charles Bianchi e sì, ho rubato l'assegno e l'ho firmato io. E ora, in prigione, dove simulo una crisi epilettica. Mi infilano una camicia di forza, mi calmo e poi il processo. Tengo a dire davanti a questa corte che non sono colpevole dei fatti di cui mi si accusa. Charles Ponzi, detto Charles Bianchi, lei è condannato a 2 anni di prigione. 2 anni dopo, uscito di prigione, Montreal, Atlanta. Poi un treno va verso lo stato di New York. Stevenson, ispettore delle dogane, posso vedere i suoi documenti? Ecco i miei, signor ispettore delle dogane. E queste persone? Ah, a dire il vero, se vogliamo parlare con esattezza, queste persone attualmente non sono in possesso di tali documenti. Devo interrogarli. Non sono nemmeno in possesso dei rudimenti della lingua americana. Sono delle sue conoscenze? Quasi no, per così dire. Ma lei li accompagna? Io la disponibilità verso il prossimo ce l'ho nel sangue. Alla stazione ho incontrato, per caso, un vecchio compagno di scuola che mi raccomanda questi 5 poveri pellegrini del mio paese. Io vedo la speranza nei loro occhi, mi chiede di fare in modo che non si perdano per strada. Cosa mi ci vuole? Mi costa? Caro, molto caro. Ci potete indicare l'uomo che vi ha introdotti illegalmente nel vostro paese? I 5 immigrati indicano Ponzi con il dito. È questo l'uomo che vi ha introdotti illegalmente nel nostro paese? I 5 immigrati annuiscono con la testa. Charles Ponzi, lei è accusato di aver favorito l'immigrazione di 5 cittadini stranieri in situazione irregolare sul territorio americano, dietro remunerazione. Me ne mette fatti? Sì, signor giudice, fondo la mia difesa sul riconoscimento della colpa sperando che la corte tenga conto della mia sincera buona volontà. Lei è condannato a $500 di multa e a 2 anni di prigione che lei sconterà nel penitenziario federale di Atlanta. Di nuovo al fresco. Madre mia adorata, non ce la faccio. Sto attraversando un ciclo di rovesci, la sfortuna si accanisce contro di me. Potrei mentirti e assicurarti che vivo magnificamente. Oppure mi sono convertito a una vita modesta, una vita di lavoro che mi tiene al riparo dal bisogno e dalle tentazioni nefaste. Ma è molto peggio di qualunque cosa si possa immaginare. Sono in prigione, madre. Sto scontando una pena. Metà per colpa mia, metà per le leggi di questo paese che è dura solo per quelli che non hanno niente. Oh, madre. Se fosse possibile che tu continuassi a credere in me e ad amarmi dopo queste notizie. Sappi che io non ti chiedo nulla, non voglio nessun aiuto. Se arrivasse, lo rifiuterei. Desidero uscire da solo da questo cattivo momento perché è il solo mezzo per me di uscirne degnamente. E forse cresciuto e pronto per un nuovo inizio in questo spaventoso nuovo mondo. Scorticato vivo, poi in Atlanta. Allora Blockton, Alabama, città in espansione, città di carbone, l'oro in pepite nere dell'Alabama, Blockton, dove un sacco di minatori italiani vengono a piazzarsi con la loro famiglia e tu gli fai da infermiere quando risalgono a pezzi dalla miniera. All'ospedale di Blockton. Non posso nemmeno guardarlo. Eppure bisognerà guardarlo se lo vogliamo salvare. E se potessimo salvarlo senza guardare? Lei non è infermiere per vocazione. No, una serie di casi concatenati. Impari a guardare in faccia un viso a brandelli. Le servirà sempre, qualunque sia la sua vocazione. Lei lo benda come si fascerebbe un bambino. Shh, non faccia rumore. È morto. Si è addormentato. È merito della sua dolcezza questo. Shh. Ora salgo sul podio, davanti all'assemblea dell'accampamento italiano di Blockton. Non facile, signori! La mia vita da quando sono arrivato in questo paese. Molto dura, direi. E per la prima volta trovo una comunità. E oltretutto di italiani. E mi sento di appartenere a questa comunità, perché qui ci sono delle famiglie. E come da noi ci sono feste, battesimi, matrimoni. Bene. Solo che le condizioni di vita qui sono preistoriche. Niente acqua corrente, niente elettricità. Come potete continuare a vivere così? Io voglio fare qualcosa per questa comunità. Voglio che viva come merita. Ricevo un'ovazione. Si impegni. Sono sfinito, signorina Gossett. Allora vado a dormire. Anche lei dovrebbe andare a dormire. Non possiamo lasciarlo solo. Lei è talmente resistente. Beh, è il mio lavoro. Lei non è nemmeno italiana. No, sono inglese. Di origine germanica. Molto lontana. E lei si occupa di questi italiani come se fossero della sua famiglia. Io non lavoro per le dogane. Io lavoro per l'ospedale. Lei è una santa. Senza dubbio. Lei ha intenzione di restare molto tempo fra noi? Prenda un bicchiere di vino, Pearl. Non l'ho mica rubato. Non bevo alcol. Non le piacerebbe l'idea di metter su casa, signorina? Non ci ho mai pensato. E un'avventura? La vita qui è tutta un'avventura. Con un uomo, intendo. Sì, avevo capito. Ma queste avventure sono molto prevedibili e alla fine dei conti molto poco avventurose. Cari compatrioti, non sarebbe difficile portare l'elettricità a Blockton, nelle vostre case di legno. Io so come fare e lo so anche per l'acqua corrente. C'è un pozzo non lontano da qui. Le vostre donne ci vanno, tornano cariche come muli, ma l'acqua di questo pozzo potrebbe essere incanalata fino alle vostre abitazioni. Ne ho già parlato e sono tutti d'accordo con me e con la mia idea, che è una buona idea. Ricevo un'altra ovazione. Pearl Gossett sta preparando un pasto per un paziente. Il forno a gas esplode mentre lei si avvicina. Sono il dottor Thomas. Tutti qui considerano la signorina Gossett quasi una santa. Se non si fa niente è finita, la cancrena sta per diventare cronica. Cosa bisogna fare? La sola cosa che potrebbe salvarla è un trapianto di pelle, ma non ho trovato nessuno disposto a darne nemmeno un centimetro quadrato. Nessuno? Nessun fedele per salvare la santa? Può morire nel migliore dei casi se la cavirà con l'amputazione di un braccio. Non potrà più lavorare. Quanta pelle ci vuole per il trapianto? Che superficie di pelle? Molta, almeno 80 centimetri quadrati o un metro quadrato. Un metro quadrato di pelle? All'incirca. E gliela do io la pelle. Le do la mia pelle io. Lei? Quanta? Che superficie? Ma tutta la pelle che serve, un metro quadrato. Lei? Ma sì, visto che i credenti qui non la vogliono dare. Ma bisogna farlo adesso. Ma io sono pronto, andiamo, mi accompagni. Ponzi viene tagliato a pezzi. Viene fasciato da capo a piedi e disteso. Sono 2 settimane che lei è qui. L'infermiera come sta? Non basta, ha bisogno di più pelle. La mia carità non è stata ad esempio? No. Quanta ve ne serve? Ancora un metro. Un metro quadrato. Prenda. Tutto quello che serve lo prenda. Sulla schiena, sulle gambe. Prenda. Si svegli. Si alzi. È finita. Lei si è battuto per 3 mesi. Ha rischiato di prendere una pleurite. Ha pianto di dolore. È passato dall'altro lato della vita ed è tornato. Conserverà per sempre queste grandi macchie bianche da scorticato sul ventre, sul petto, sulla schiena e sulle gambe. L'infermiera è sfigurata, ma è sopravvissuta. Ha conservato il braccio. Lei non la potrà vedere. L'hanno portata altrove. Si parla di lei sui giornali di qui, eh? Ho messo da parte l'articolo. La proporranno per una medaglia dal Carnegie Hero Fund, che ricompensa questo genere di eroismo civico. Forse le daranno una pensione. Fuori si stanno arrivando. Stanno tirando dei cavi e stanno scavando delle canalizzazioni. Ci si è organizzati per far arrivare l'acqua e la luce elettrica a Blockton grazie a lei. In Europa è la grande guerra. L'Italia reclama i suoi figli e l'appello del paese natale. Tu sei pronto a dare il tuo sangue? Il tuo sangue adesso? Cos'altro hai? Il transatlantico leva l'ancora da New York. Come il biglietto? Io non voglio pagare il biglietto. È il governo italiano che pagherà il mio biglietto. Sto partendo per combattere nell'esercito italiano. Sto rimpatriando per raggiungere l'esercito italiano. Non mi pagherò certo il biglietto. Come? Il governo italiano non paga il biglietto dei cittadini che rimpatriano? Nemmeno di quelli che tornano a combattere per l'Italia? Beh, mi sorprenderebbe. Chiedete al console. Ah, gliel'avete già chiesto. Lo sapete dal console in persona. Sì, in questo caso effettivamente le carte cambiano. Vi prego di scusarmi un momento. Io mi voglio impegnare, però non bisogna esagerare. Salto dal parapetto per tutta l'altezza del transatlantico, un tuffo nel mare del porto, qualche bracciata fino al molo. I miei effetti personali, poca roba a dire il vero, i miei effetti personali navigheranno senza di me. I miei effetti personali sono rimasti a bordo, rimandati alla mia terra natale. Si fa questo per i soldati morti. Rivivere a Boston. 35 anni, una vita di espedienti, una vita pietosa. Facciamola finita, Ponzi. Adesso basta lavori manuali. Pittura delle facciate, lavapiatti, le mani e le braccia cariche attraverso le porte a battente, le cucine, la sala, le cucine. Finito. Tutto questo finito. Non si farà altro che lavori da colletti bianchi. A Boston, la compagnia di import-export J.R. Poole cerca uno stenografo. Benissimo. Si torna a Boston. $16 alla settimana. Ma con delle prospettive di compartecipazione agli utili dell'impresa. Poi, un giorno di commemorazione, di uscita con la sua affittacamere, Miss Lombard, professoressa di pianoforte. È mezzanotte. La folla rifluisce. Si aspetta il tram sulla Highland Avenue, vicino a Somerville, là dove cresce la colonia dei bostoniani arrivata dall'Italia. E lì, in mezzo alla folla del volgo, lo sguardo di Ponzi coglie al volo... Rose! Venga, gliela presento, ma bisogna che lei riacquisti la parola. Rose! Rose! Ah, mi ha vista! Si avvicini, tesoro! Attraversi la folla, Rose! Le voglio presentare qualcuno, il mio inquilino Charles. Charles, le presento Rose Gnecco. Come sta? Come sta? Oh, il tram! Oh, allora, a presto, signore. Miss Lombard, tralalala, oh, tralalala, a presto. Va via in fretta. Ma lo prendo anch'io, il tram. Lo prendiamo anche noi, Miss Lombard, il tram. E mi siedo qualche posto dietro di lei. Ha 21 anni, Rose. La sua famiglia è originaria di Genova. 20 minuti di tram, concentrato sulla sua nuca. Ma lei è nata a Boston, 5 fra fratelli e sorelle. La sua nuca, il suo chignon, il suo collo. Suo padre nel commercio di frutta e legumi. 20 minuti a mandarle respiro e pensieri sulla schiena e sulle spalle. 7 anni segretaria in una piccola ditta a Somerville, ma sogna di sistemarsi. Le ragazze italiane, le famiglie italiane. I primi 20 minuti di felicità a Boston. Ah, siamo arrivati. A quando, caro Charles? La prossima settimana? Allora, come la trova la mia piccola allieva? La sposerò, Miss Lombard. Le telefono. Rose, venga a teatro con me. Danno uno spettacolo di immagini in movimento. Uscendo di casa, ho rischiato di inciampare sui suoi fasci di rose. Adesso li manda tutti i giorni. Mio padre è furioso e lei ci sta rovinando. Eh beh, non si preoccupi per me. Io voglio sposarla. Lei è completamente... Le sono piaciute le immagini in movimento? Niente male. Interessanti. E a lei? Non ho potuto guardare niente perché lei era seduta vicino a me. Lei è furbo, allora. Domani vengo a prenderla. Andiamo a fare una passeggiata a Beacon Hill. Non le mancano i mezzi. Solo una passeggiata. Grazie per le gassose. Non ho mai visto una cosa simile. Qualcuno che fa mandare le gassose in ufficio. L'hanno rinfrescata. Si mandano i fiori, ma le gassose... Mando anche dei fiori. Questo è vero. Lei è davvero... Mi è piaciuto passeggiare con lei. Sì, sì. Oh la la la. Domani? No, no, no, no. E perché? Non tutti i giorni. Perché no? Domani porto i miei nipoti alla spiaggia di Nantucket. Ah, Nantucket. Sì, non ha motivo di presentarsi all'improvviso. Ma che idea, come se io mi presentassi all'improvviso. Il giorno dopo sulla spiaggia. Ah, è lei? Grazie davvero. Promette e hop, chi vedo arrivare sulla spiaggia? Avevo l'aria da idiota con i miei nipoti. Ma i suoi nipotini mi adorano, non mi lasciavano andare via. Beh, è facile, lei gli comprava i gelati, li comprava. E lei crede che io cerchi di comprare lei? Non lo so, sì. E lei non è in vendita? No, no di certo. E allora mi rimborsi tutto quello che ho speso. No, è troppo tardi, peggio per lei. Lei è davvero un bel affare, sa? Via, la chiamo domani. Pronto? Sa che suono il mandolino? Potrei farle una serenata. Non sotto le mie finestre, mio padre è armato. Me lo presenti? Lei non mi ha nemmeno detto chiaramente cosa fa nella vita. Eh beh, lavoro per conto del governo italiano. Ogni volta dice così, ma cosa vuol dire? In realtà sei sempre da J.R. Poole, ma non più stenografo. Il tuo capo è morto improvvisamente e siccome sei in gamba ti hanno dato il suo posto. Adesso guadagni $50 a settimana. Le farò un vero regalo, Rose. Lei non fa che farmi dei regali. No, ma uno vero. Un diamante. Lei è matto! Lo ha preso da Tiffany! È degno di lei! Perché lo ha fatto? Voglio sposarla! Oh là là! Lei non può rifiutare! No, adesso no, non posso rifiutare. Gentile signorina, mi permetto di scriverle perché mio figlio Carlo mi ha comunicato la sua intenzione di sposarla. Non so quale sia il suo stato d'animo verso di lui, ma credo di doverla avvertire di alcune cose che lui le avrà probabilmente nascosto. Mio figlio Carlo Ponzi non è un uomo cattivo, non c'è cattiveria in lui, ma non c'è nemmeno volontà. È un essere velleitario, incapace di condurre una qualsiasi cosa a termine, incapace di resistere a una tentazione, spendazione, incoerente e manipolatore. Il suo temperamento lo ha portato a sconfitte e vagabondaggi e perfino in prigione. Probabilmente questo lui non glielo ha confessato. Dice che non è colpa sua, ma è colpa di una giustizia inflessibile e iniqua. E se lo si ama abbastanza, gli si potrà credere o lo si potrà perdonare. Comunque vadano le cose, signorina. Credo fosse mio dovere informarla di tutto questo, affinché lei possa decidere con cognizione di causa. Affinché lei possa decidere con cognizione di causa. E se accadesse che, malgrado ciò, lei acconsenta alla domanda di mio figlio, la scongiuro di non rivelargli che io le ho scritto. Io, Rose, delibero. Ora sono vestita da sposa. 4 febbraio 1918, nella chiesa di Saint-Antoine su Vane Street. La bacio. Il mio unico rimpianto, l'unico, è quello di non aver potuto far venire mamma. Sì, che peccato, davvero un peccato. Lei avrebbe adorato esserci. Come mi dispiace, madre, come mi dispiace di non averti potuta far venire a queste nozze. Che peccato! Ma una volta pagate le nozze lo capirai, a noi non restava nulla per il tuo biglietto. Il biglietto è talmente caro, non possiamo permettercelo. No, non possiamo. Rose, non ti sembra che tuo marito sia comunque un po' troppo bravo? Un po' troppo sorridente, seduttore, premuroso? Da dove vengono i regali che ti fa? Ti dice che lavora per il governo italiano. In realtà lavora per un'impresa di import-export. Non guadagna poi così bene. E il suo passato? Lo conosci almeno? Metti che lui... Mio marito è un gentleman e continua ad esserlo quando chiudiamo le porte di casa nostra, il che non è da tutti. Non c'è altro da sapere. Tu hai lasciato il tuo lavoro per occuparti della casa. Ma che cos'è un lavoro in confronto a una casa? A un marito? Uno, due, tre, quattro bambini. Tu non hai bambini. Ne avrò. Sembra che lui non abbia la nazionalità americana. Fotografo Rose, che indossa un collier che io le ho appena regalato. Tu sei una pura bellezza americana. Perché non chiedi la nazionalità americana? Passi il tempo con la testa in questo telo nero e non ti si può più parlare. Ti immortalo. Se ci riproducessimo non sarebbe mica così male. Aspettiamo di averne i mezzi. Non servono i mezzi. Tu hai gusti da miliardario. Basta trovare l'idea, la troverò, e quando l'avrò trovata a quel punto avrò i mezzi, e quando avrò i mezzi a quel punto chiederò la nazionalità americana. Sono il banchiere di Masellis. Guardate il corso della lira italiana. È completamente sprofondata dopo la guerra. Servivano 5 lire per avere un dollaro. Adesso ne servono 18 o 20. Si può speculare sulla caduta di alcune monete europee, a condizione di avere un po' il piacere di rischiare. Comprare valuta quando è molto bassa e rivenderla quando sale. Perché in questo momento, mi creda, fluttua selvaggiamente. Sono a casa, curvo sulla mia collezione di francobolli. Bisognerebbe trovare il modo di comprare della valuta, molta valuta. Li ami più di quanto ami me, i tuoi francobolli. Li ho ereditati da mio padre, impiegato postale di Parma. Non valgo granché se tu mi preferisci i francobolli. Mi alzo e la fotografo. L'attivo di Gnecco Brothers, la ditta di tuo padre, attualmente, cos'è? Quant'è? $6,000. E il passivo, i debiti? 11,000. Padre, mi dedicherò alla Gnecco Brothers. A tempo pieno, $6,000 dentro, 11,000 fuori. Ci getteremo nella battaglia e salveremo l'impresa di famiglia. E io voglio la carica di presidente e di tesoriere. Presidente e tesoriere? Beh, altrimenti non posso fare niente. Bisogna almeno che possa, altrimenti bisogna che abbia le mani libere se voglio. Presidente e tesoriere. Settembre 1918. Non lavoro più per gli altri. Presiedo l'impresa della frutta e dei legumi del padre di mia moglie. La notte, a letto. Tu ti ritrai. Ti ritrai sempre. Subito prima della fine, ti ritrai. Perché? Resta. Resta fino alla fine. Almeno una volta. E avremo tutto. Prima salvo la tua famiglia. Dopo la ingrandisco. Mamma sta male. O lavoro per me, o non lavoro. Nel 1918 mia madre muore. Mi ha lasciato qualcosa e se tu smetti di coprirmi di regali e di comprare francobolli, possiamo farcela per un po'. Non vogliamo farcela. Vogliamo decollare. E voglio ridurre un po' i francobolli, ma non i regali. La faccio volteggiare e la bacio. Allora, col gruzzoletto affitterai due piccoli uffici al quinto piano di un immobile su School Street al numero 27. Ti compri $350 di mobili da un certo Daniels a credito, $50 di acconto e poi $5 al mese. La tua idea, che ti esalta, è di far fruttare la tua esperienza nel campo dell'import-export. Nel campo dell'importazione-esportazione hai capitalizzato esperienza. Sarai agente, sarai mediatore per delle società interne o per delle aziende internazionali che desiderano commerciare da una parte e dall'altra delle frontiere. Tu conosci bene le frontiere e gli affari transfrontalieri, ma per questo bisogna farsi conoscere e tu non hai conoscenze fra coloro che devono conoscerti. Hai bisogno di pubblicità e la pubblicità costa cara. Bisogna stampare delle circolari, ogni esemplare costa un centesimo e molto di più per l'estero. Sarai morto prima di cominciare. Quando non si hanno i mezzi per comprare quello che gli altri vendono, bisogna arrangiarsi per venderlo da soli. Ho un'idea, la Trader's Guide, la guida del negoziante. Una guida pubblicata in 6 lingue, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e portoghese. Si spediscono dapprima 100,000 copie gratuite a delle società delle quali si trovano le coordinate all'ufficio di commercio o presso i servizi consolari. Poi, 6 mesi dopo, una nuova edizione aggiornata alla stessa società e da 100,000 altre e così via. Calcolare per il primo invio a 35 centesimi al pezzo, che moltiplicati per 100,000 fanno $350,000. La pubblicazione sarà a 200 pagine, 150 delle quali saranno di annunci pubblicitari. A $500 la pagina pubblicitaria, per 150, cui aggiungere ad esempio $5,000 per la copertina. Si hanno 75,000 più 5,000, ovvero $80,000. Le entrate raddoppiano ogni volta che noi raddoppiamo la diffusione della guida. E anche i profitti. Esclusi gli affitti e i salari, immagazziniamo $15,000 di benefici in 6 mesi, poi $30,000 nei mesi successivi, e così via, fino a quando ci saranno dollari in America. Un annuario della società pagato dalla pubblicità. Ho appena inventato qualcosa. Qualcosa che non esisteva. Ho appena inventato... Cosa? Ho appena inventato le pagine gialle. Estate del 1919, alla Hanover Trust Company. Ho un conto da voi alla Hanover Trust Company e vorrei sottoscrivere un prestito di $2,000. Sono il direttore della Hanover Trust Company. Effettivamente lei ha un conto da noi, un piccolo conto. Talmente piccolo che ci costa più di quanto non ci renda. Il suo conto è talmente piccolo che prestarle $2,000 equivarrebbe a regalarle $2,000. Nell'agosto del 1919 ricevo una lettera dalla Spagna. Avreste la gentilezza di spedirmi un esemplare della vostra guida del negoziante? E insieme alla lettera spillato uno strano pezzo di carta della dimensione di una banconota, una cedola, destinata a pagare le spese di spedizione. Guardo la cedola, International Reply Coupon, cedola di risposta internazionale, e così, in un secondo, avviene qualcosa. Il tempo delle idee. È un tempo breve, veloce. Ma cos'è la cedola di risposta internazionale? All'inizio del XX secolo, spedire posta da un paese all'altro è una cosa complicata. I francobolli sono validi all'interno di uno stesso paese, ma non da un paese all'altro. Quindi, nell'aprile del 1906, 63 paesi membri dell'Unione Postale Universale, UPU, si sono riuniti a Roma e hanno adottato un certo numero di misure per facilitare gli scambi postali internazionali. In particolare, hanno inventato una soluzione per un caso spinoso. Quando volete che un corrispondente all'estero risponda a una vostra lettera, l'uso o la cortesia vuole che voi scivoliate nella vostra lettera una busta affrancata al vostro indirizzo, che egli potrà utilizzare per rispondervi. Ma nel 1906 questo non funziona, proprio perché i francobolli non sono validi oltre le frontiere. Allora voi potete mettere una somma di contanti nella busta, che coprirà le spese postali del vostro corrispondente, ma egli sarà costretto ad andare a cambiare il denaro in banca, eccetera, eccetera, il che non è affatto pratico. Ecco da dove nasce l'invenzione della cedola di risposta internazionale, il cui valore è identico da un paese all'altro e che può essere scambiata con l'affrancatura minima per una spedizione prioritaria o una lettera aerea non raccomandata all'estero. Questo funziona perfettamente, a condizione che le valute dei paesi membri dell'UPU siano relativamente stabili le une rispetto alle altre. Il problema è che con la Prima Guerra Mondiale, della quale nessuno si era accorto, alcuni paesi, soprattutto europei, hanno visto la loro moneta svalutarsi molto e i governi di questi paesi a quel punto hanno altro da fare che ridiscutere i criteri dei regolamenti postali. Ponzi sa che la moneta spagnola ha sofferto della Grande Guerra. La cedola che ha ricevuto dalla Spagna vale 30 centavos, ovvero 6 centesimi. Togliete un cent per la tassa riscossa dall'amministrazione postale. La cedola vale 5 cent. Per un dollaro avete in questo momento 6 pesetas e 66 centavos, quindi con l'equivalente di un dollaro voi comprate in Spagna 22 cedole. Ma se voi vi fate rimborsare le 22 cedole negli Stati Uniti, non avete un dollaro, ma un dollaro e 10 centesimi di francobolli. Cambiandoli a Boston invece che a Madrid guadagnate 10 centesimi. Su ogni dollaro di cedola acquistate voi avete un beneficio di 10%. Adesso guardate con l'Italia. Per l'equivalente di un dollaro a Roma voi comperate 66 cedole, 3 volte più che in Spagna, e se le cambiate a Boston valgono ora $3,30 di francobolli. Il beneficio non è più del 10, ma del 30%. Allora Ponzi che fa? Verifica. Spedisce un dollaro a un suo conoscente in Francia, un altro dollaro a qualcuno in Spagna e un terzo in Italia e chiede a ciascuno di cambiare il dollaro in moneta locale, poi di spedirlo in cedole di risposta internazionale e poi di rispedirgli le cedole a Boston. E lui, contemporaneamente, fa la stessa cosa con un dollaro. E qualche settimana dopo ha le risposte e... confronta e vede che ha calcolato esattamente. Con la Francia ci perde un poco, con la Spagna ci guadagna un poco e con l'Italia ci guadagna parecchio. E cosa fare per procurarsi le cedole di risposta internazionale in grandi quantità e per inoltrarle? Beh, questo poi si vedrà, è un dettaglio. Esistono abbastanza cedole di risposta internazionale? Beh, se non ce ne sono abbastanza, i governi ne stamperanno di nuove per fronteggiare la domanda. Questa è una loro responsabilità. Sono legali transazioni di questo genere sui valori postali e i tassi di cambio? Nulla dice che siano illegali. E tutto ciò è etico? Negli Stati Uniti anche l'etica è un valore molto fluttuante. E come fare per cambiare le cedole contro contante? E questo è il mio lavoro. Ascolta, sì, non so, sembra che possa funzionare. Perché no? No, non so se ho capito tutto, ma spero che questo non ci faccia di nuovo uscire di strada. Ci siamo in strada. Allora va bene, non ci costa nulla. Nulla. Allora vai. Sì, lo farò. Comunque, mi serve una posta di partenza per comprare delle cedole. Sì, bisogna che tu trovi degli investitori. È quello che mi sono detto, un piccolo numero di grandi investitori. Proprio così. Ma non ne trovo. Quando racconti, il tuo piano deve attrarre. Non lo spiego troppo, perché a forza di attrarre finisce che me lo copiano. Allora sei incastrato? Sì, lo ero quasi. Ah, sì, ho capito. Vuoi i miei gioielli? I gioielli che mi hai regalato? Mi stai chiedendo questo? I miei gioielli? Li vuoi vendere? No, no, no, no, no, no, no! Certo, i miei gioielli. I tuoi regali. Vuoi i tuoi regali, i tuoi gioielli? Troverò un'altra idea. Prendili, prendili. Non voglio venderli, eh? No. Voglio portarli al banco dei pegni. Ah. Sono l'usuraio Rosenberg. 500 sacchi per le fedi e 20 per l'orologio. È d'oro? Fortunatamente sì. A lei non le interesserebbe investire in un affare remunerativo? Investire? Con grandi benefici, garantiti dalla disparità del tasso di cambio. E il fatto è che noi usurai abbiamo una tradizione. Ad esempio, non investiamo in affari di persone che depositano da noi i gioielli di famiglia. Sono il venditore di mobili Daniels. I miei 5 dollari, lei è in ritardo. Non li ho. Confisco tutto. Le faccio una proposta. Mi presti 200 dollari? Oh no, questo no. Lei è il tipico cattivo pagatore che prende eternamente a prestiti. Li detesto. No, io sferro attacco. Mi ascolti, avido creditore ingombrante. Le firmo una cambiale. Lei la incassa presso la banca nella quale ha un conto. Tiene 100 dollari per i mobili, io le rimborso a rate di 20 a settimana i 200 più interessi e in meno di 3 mesi è tutto sistemato. Se lei guadagna, guadagna tutto. Se perde, non perde granché. E mettendomi una grande banca alle calcagna, lei recupera almeno la sua posta. E oltre a ciò, non è tentato di entrare in un affare strabiliante? Bisogna vedere. Se le cose stanno così, andrò io ad informarmi all'ufficio postale. E per la cambiale? Vedremo. Un piccolo numero di grandi investitori va bene, ma un grande numero di piccoli investitori, questo mi serve. Convinco persona per persona. È inverno, gennaio 1920. Giberti, il droghiere, porta 18 clienti e 1.770 dollari di investimenti alla Security Exchange Company. Fa anche lui un deposito, Giberti, 10 dollari. Si comincia a parlare in città. Il vocio, l'eco, questa epidemia. I creduloni contro gli scettici. Gli scettici. Da dove vengono le cedole? Come se le procura? Febbraio 1920. 14 depositanti. 5.240 dollari dall'usuraio Rosenberg. È venuto a riprendere i suoi sbrillocchi? Sì, i gioielli. E la cipolla? Sì, anche l'orologio, starà bene col vestito. Mi faccia vedere. Ah, è cucito. Il vestito è bello, con tutta probabilità le sue cose vanno bene. Un piccolo investimento, Rosenberg? Sì? No? Marzo 1920, altri 120 depositanti e 22.000 dollari. Ogni investitore soddisfatto diventa un potenziale agente. Ecco quindi 500 dollari per te, madre mia carissima. Li cambierai in banca e saranno 10.000 lire. Per te sono molte, ma per me non è molto. E ben presto, credimi, non sarà proprio nulla. Una goccia d'acqua nell'oceano che ci separa così crudelmente. Dal venditore di mobile Daniels. Ecco il saldo, $200, prima del previsto. E da dove vengono? Oh, vabbè. Prenda una cedola da me, Daniels. Sì? No? Io riprendo dei mobili da lei. Questo è bello, è massiccio. Sono un funzionario della Fidelity Trust Company, Mr. Ponzi, lei è in russo presso la Fidelity Trust Company. Abbiamo richiesto il sequestro dei suoi beni e dei suoi conti bancari. Che i vostri avvocati vedono i miei. Sono il recente direttore della Security Exchange Company, che è tutto tranne che deficitaria. Poi vado al commissariato di polizia. E poiché ritengo che noi abbiamo un'eccellente polizia a Boston, desidero portare il mio contributo alle vedove e agli orfani di questi servitori della legge, i quali, per adempiere eroicamente al loro dovere, sono stati privati della vita. Ecco quindi un assegno di $250 per le vostre opere. Sono il commissario di polizia O'Brien. La polizia di Boston se ne ricorderà. Peraltro le farò visita prossimamente e ho intenzione di investire da lei. Vabbè, perché spostarsi? Ho sempre delle cedole con me. Non è una cifra astronomica, ma sono comunque $300. Lei firmi qui. Poi ricevo una lettera dall'amministrazione postale. A seguito della sua domanda la informiamo che le cedole di risposta internazionale sono destinate a pagare in anticipo le risposte del Corriere Internazionale. A questo scopo possono essere scambiate con francobolli di paesi stranieri e con nient'altro, e sicuramente non con il loro valore in denaro. Non possono quindi in alcun caso essere l'oggetto di una speculazione finanziaria e l'amministrazione postale non autorizzerà una simile deviazione dal loro uso. Io sono vittima di una crisi d'ulcera e mi torco dal dolore, ma continuo. 1920, aprile. Vinicio Vigarello, restauratore, io deposito $240. Francesco De Lorenzis, commerciante, io deposito $120. Marcello Massari, droghiere, io deposito $250. Harry Bolognini, ristoratore, io deposito $1,700. Percy Lamb, uomo d'affari, un tempo nel tessite, io deposito $600. Lamb, lei è di origine inglese. Lavori per me. Io attraggo solo italiani, mi servono gli americani, gli inglesi, gli irlandesi, gli ebrei. Le offro il 15%. Stanley Prescott, libraio, io depongo $400. Neil King, uomo d'affari, io depongo $1,300. Nicole Sherwood, cameriera, io depongo $100. John Moe, cuoco, io depongo $60. Rose Ponzi, io deposito $70. Cara... Aprile 1920, $30,000 alla settimana. Lucy Meli. Io sono nata in Sardegna. Ho troppi contanti, non so più dove metterli. Lei mi aiuterà a sistemarli, pago bene. Ho bisogno di una persona fidata e che non faccia troppe domande. Io sono nata in Sardegna. Aprile 1920, $140,000, 471 sottoscrittori, a $300 di media. Allora, Bianchi, sono Cassulo, non ti ricordi di me? Ne hai fatta di strada, complimenti! E io non riesco nemmeno a guadagnarmi la vita onestamente. Eppure abbiamo fatto la stessa scuola a Montreal, in carcere. Che cosa vuoi, Cassulo? Ma loro lo sanno, le persone dei tuoi brillanti studi a Montreal. Cassulo, che cosa vuoi? Dei soldi? Un lavoro? E perché non tutti e due? Un altro ufficio a Boston, su Hanover Street, poi delle succursali nel Massachusetts e poi in tutti gli Stati Uniti. Sono vittima di un'altra crisi d'ulcera, ma continuo. Cosa c'è, capo? Lei si tiene lo stomaco, ha un'ulcera. Sei tu la mia ulcera, Cassulo. Ho una missione che ti distrarrà. Nel porto di New York c'è un cargo e in quel cargo ci sono delle bottiglie di cognac Hennessy 3 stelle, il mio preferito. Tu me le andrai a prendere. È che quelli della proibizione, quelli sono di bivigili. Oh, Cassulo, la proibizione te ne occupi tu, no? Aprile 1920. Le autorità postali italiane, poi quelle francesi e rumene, interrompono la stampa delle cedole di risposta internazionale. Ogni investitore soddisfatto diventa un potenziale agente. Gli agenti coinvolgono gli agenti. Gli agenti degli agenti coinvolgono dei subagenti. Si moltiplicano gli impiegati. Si assumono dei rappresentanti. Si moltiplicano i conti in banca. Un agente immobiliare di Lexington. Voi apprezzerete l'architettura coloniale. È stata in voga e torna ad esserlo. Il porticato a colonne e il portico di legno. Il giardino, avete visto? È perfettamente cinto dalla siepe e il prato all'inglese è di velluto. La fontana di pietra funziona e voi dovrete soltanto spazzar via le foglie secche dal campo da tennis. Vogliate seguirmi all'interno? Ah, e il parquet è in quercia. È troppo. Ora entrate nel grande salotto. Il camino è in marmo, un grande studio circolare, soleggiato, e dall'altra parte uno più piccolo, che vi porta all'ampia sala da pranzo, mentre in fondo al corridoio la cucina moderna. C'è il gas? Il gas? No, non c'è. Lo metteremo. Non ne vale la pena. Non sarai tu a cucinare. In cima alle scale un soggiorno, con ampie vetrate che danno sulla strada. Una casa, non un maniero. La via Lexington non è molto animata. Lexington è ottima per le persone che hanno un'attività fiorente e che non vogliono che lo si sappia. Proprio come te. Al secondo piano poi le camere da letto, ce ne sono quattro. Per la nostra nutrita discendenza. A me non dispiacerebbe che lo si sappia, ma mia moglie predilige la modestia delle apparenze. Quanto? Torniamo da noi a Somerville, te ne supplico. Non troveremo mai qualcosa di più modesto. Allora, quanto? Ditemelo voi. 29.000. Povero. 39.000. Triste. 39.000. Da prendere in considerazione. $9.000 in contanti, più 20.000 in note della Security Exchange Company, che diventeranno 30.000 alla maturazione. Garantite da un certificato di deposito di $30.000 presso la mia banca, la Tremont Trust, pagabile in caso di problema con la Security Exchange. Mi compro una Hudson Coupé. Traslochiamo a Lexington. Negli uffici della Security Exchange Company, Ponzi e Lusimeli sono seduti schiena a schiena. I depositari si susseguono. Lei aveva bisogno di un registro dei depositi. Ho collaudato un sistema di schede. Lei è una piccola sarda preziosa, che io possa sentirla sempre alle mie spalle. Ecco il suo cognat, capo! 3 stelle, alle spalle della proibizione! Nessun problema, è la scuola di Mondrian questa! Discreto, Cassulo! Si dice che lei alloggia nel quartiere dei ricconi. Beh, io e la mia Teodora abbiamo trovato una stamberga nello stile coloniale olandese, a Winthrop, e ci siamo detti che l'atmosfera balneare ci avrebbe calmato i nervi. E anche l'appetito. Questo è per il mio rimborso spese. E mi ficco in tasca una manciata di banconote e me ne esco. Lui se serve così? Niente domande, Miss Melly. Come prendere il controllo di una banca nel 1920 a Boston? Prima di tutto, spendere molto, tutto quello che può. Il capitale di una banca media sulla costa East si eleva a circa $5 milioni. Faccia in modo di spendere almeno la metà di questa somma, intorno ai 2,7 milioni, e diventi il maggiore depositante. Poi diventi amico dei maggiori azionisti. Come? Faccia risuonare le sue affinità etniche. Se è italiano, guadagni la simpatia dei maggiori azionisti italiani. E contemporaneamente compri qualche quota, ma non troppe, in modo tale che la sua ascesa non si noti. Mettiamo che la banca abbia emesso 2.000 nuovi titoli. Ne compri 70. Ma i suoi nuovi amici italiani, loro, debbono detenerne 600 e al momento giusto saranno suoi. Se capita per esempio che la banca emetta 2.000 titoli supplementari perché ha sentito che stava accadendo qualcosa, non si scoraggi. Vada a trovare il direttore e gli proponga di comprarli tutti. È una proposta esuberante. Rifiuterà. Allora gli chieda il suo saldo. A quel punto sbiancherà, perché se lei vuota il conto, la sua banca si ritroverà al verde. Le proporrà di prendere 1.000 quote. Lei rifiuti. Salirà a 1.500. Non sa che gli italiani, con le loro 600 quote, voteranno per lei. Lei ora controlla 2.100 quote. Lei è maggioritario. Le azioni la eleggono direttore. Direttore della Hanover Trust Bank di Boston, che 9 mesi prima gli aveva rifiutato un prestito di $2.000. 1920, giugno. Mi servono delle imprese. $61.000 nella Napoli Macaroni Manufacturing Company. Un'impresa di sardine in scatola nel Maine, una di imballaggio di carne nel Kansas. Quando si è sofferta la fame, si sanno scegliere gli investimenti e le banche. Il braccialetto da $1.000 lo riprendi e vai a farti ridare i soldi. Io non porto braccialetti da $1.000. E la collana ti sta bene, ti piace? Quanto la collana? Non posso dirtelo. Più del braccialetto? Più, per forza, un braccialetto, una collana. Se non li riporti tu, ci vado io. Ma cosa vuoi? Cosa ti farebbe piacere? Non lo so più. Delle serate. Con te. a parlare, a cantare, ma è al di sopra dei tuoi mezzi. Nulla è al di sopra dei miei mezzi. Il tempo, la dolcezza, il sonno, un bambino, la mia gioia. A luglio ti porterò in luna di miele. Una seconda luna di miele? Ce n'è una sola? No. Tutte le lune e tutto il miele che vogliamo. Giugno 1920, 7.800 sottoscrittori, 2 milioni e mezzo di dollari. Sono l'ispettore delle poste. La abbiamo in bugno. Lei pretende di comprare le cedole in Italia mentre i servizi postali italiani hanno smesso di stamparli da ben 2 mesi. Di stamparli, ma non di venderli. Lo stock esistente non è stato distrutto. Il commercio continua. Voi non avete in pugno un bel niente. Luglio 1920, 1 milione di dollari la settimana. Controllerò le banche. Riverserò i loro conti in quella che io dirigo, la Hanover Trust, e poi ricomprerò le loro quote, che non varranno più niente, e quando risaliranno le rivenderò. Ma soprattutto sarò un buon patriota. Sono il venditore di mobili Daniels. In virtù del prestito che le ho fatto per allestire i suoi uffici, io mi considero un investitore della sua società, e a questo titolo reclamo a pieno diritto il 50% dei benefici. Per $200 di mobili? E il venditore di hot dogs, al quale mi affido ogni giorno la mia preservazione dell'esistenza fisica, ha quanto diritto? Esigo $1 milione. Le incriminazioni sono partite e il mio avvocato ha fatto congelare 5 suoi conti per un importo di $700.000. Post! Boston Post! Un bostoniano perseguitato per $1 milione! Signore, è la ressa! Vogliono ritirare i loro soldi, che facciamo? Manteniamo la parola, Lucy Mely, glieli restituiamo. Torneranno e porteranno altra gente. Noi non creiamo il desiderio, ma facciamo di meglio. Dissipiamo la paura. È il vertice della pubblicità gratuita. I miei dollari. Voglio che mi restituiscano i miei dollari. Cosa posso fare per lei, mia gentile signora? Cosa devo fare per riavere i miei dollari? Quanti dollari, gentile signora? Ho depositato $18 e vorrei che me li rendessero, ma c'è la coda e io non ho la forza. E non mi dicono nulla. Invece lei è prioritaria tra le mie priorità. Eccoli, $18, con le mie scuse. Ah beh, lei è davvero gentile. Rimborso, pago tutti. Tutti coloro che sono venuti a ritirare, senza far storie, pago sull'unghia. Posso farlo. Sembra che l'emorragia sia arginata, signore. I depositanti mandano via i ritiranti. Luglio 1920, $1 milione a settimana. Ben presto, 2 milioni. E questa seconda luna di miele in Italia? Quando sarebbe? Mai? Invece di quella ho avuto un cane, un cagnolino. Buono. Buono. Buono? Mi piace davvero molto. Non gli ho dato un nome. Ci parliamo abbaiando. 9 luglio 1920. La banchina del porto di Boston, lì dove tu attraccavi 17 anni fa. Tu non ci eri mai tornato. Un transatlantico, l'SS Cretic, scarica grappoli di passeggeri sconquassati da 15 giorni di mare. Quelli senza un soldo come lo ero io vengono diretti verso l'edificio della quarantena, dove saranno esaminati dal servizio dell'immigrazione. Ho dato la mancia a un ispettore, perché io non posso aspettare. Mamma! Mamma! Carlo! Carlo, figlio mio! Mamma, sono qui! Sono qui, no, mamma! Carlo! Oh, mamma! 17 anni, mamma! Che miracolo! Vieni, vieni! Ti faccio vedere, vieni! Oh, questa nave era il purgatorio! Ecco! È la mia casa, mamma! Guarda! Post! Boston Post! Speculazioni sulle cedole postali internazionali che traggono profitto dai tassi di cambio vantaggiosi. C'era la folla ieri al 27 di School Street. E questa è Rose, è mia moglie, è il mio cuore, è Rose. Mamma, come sono felice di vederla. Come sta? E questo è il nostro cane, è come un figlio, tranne che non ha un nome. Vi faccio una foto, non muovetevi. Signore, è l'esplosione. Dopo l'articolo del Post, il centralino esplode, i muri stanno per cedere. L'intera città viene a depositare i suoi soldi da lei. Vogliono vederla, farle i complimenti, invitarla. È vero tutto questo? È un sogno, è vero? È l'esplosione, signore. Mai vista così tanta gente. Mai vista una cosa simile. Ci saranno dei morti. Chiamo i Pinkerton perché mi aiutino a contenere la folla. E che cos'è questo? All Colony Foreign Exchange Company, 50% di interesse in 45 giorni? Hanno aperto stamattina. Sul nostro stesso piano? Non si svuota nemmeno da loro. Post! Boston Post! Charles Ponzi, ci dicono, ha collocato la sua esorbitante fortuna in società di credito, banche, beni immobiliari, tutte imprese che danno al massimo il 5% di interesse. La domanda è, perché non investe da lui la sua fortuna esorbitante? Quando uno garantisce il 50% di interesse alla popolazione, perché non ne approfitta lui stesso? Perché accontentarsi del 5%? Perché? Sono il vice procuratore generale Joseph Abbott. Lei ha risposto con coscienziosità alla nostra convocazione. Sì, signor vice procuratore generale Abbott, non ho nulla di rimproverarmi. È il modo migliore di farcelo credere. Lei garantisce un tasso di interesse del 50% in 45 giorni. E rimborso su richiesta chi vuole ritirare i suoi depositi prima della scadenza. Ha sentito dire il contrario? Mai, da nessuno. Allora mi dica, vice procuratore generale Abbott, perché lei non investe un soldo da me? No, signor Ponzi, noi non investiamo, noi investighiamo. Ponzi, lei ha dei sospetti? Sì, sospettiamo che lei rubi a Pietro per pagare Paolo, che lei paghi i primi con i soldi degli ultimi e che funzioni finché i soldi entrano. Noi vorremmo la lista di paesi nei quali lei procura le cedole internazionali ed anche l'identità dei suoi compratori all'estero. Ah beh, non sono tenuto a fornirveli. Ma io vi offro qualcosa di più. Una revisione dei miei conti. Apro i miei libri. Guardate tutto, contate tutto, fate i conti del mio passivo e poi vi farò vedere che ho abbondantemente di che colmarlo e scegliete il vostro esperto. Il nostro esperto? Pride. Sì, Pride va bene. È meticoloso. E nel frattempo io blocco tutto, eh? Non incasso più un dollaro di deposito. Rimborso unicamente coloro che vogliono ritirare i loro interessi o il loro capitale. Per il tempo della revisione. Siete soddisfatti, signori? Va bene. Va molto bene. Lei non è obbligato. Oh, bisogna pur fermare i conti se si vuol contare qualcosa. Pronto? Lusimeli? Una preghiera. Lusimeli, blocchiamo tutto. Non incassiamo più nulla, più nulla, più nessuno. Non apriamo alcun conto. Ho la popolarità americana! Ponzi! Ponzi! Ponzi! Ponzi, sindaco di Boston! Ponzi, governatore! I tre più grandi italiani di tutti i tempi. Cristoforo Colombo, che ha scoperto l'America. Marconi, che ha inventato la trasmissione senza fili. E Ponzi! Che cosa ha inventato Ponzi? Il denaro! Ha inventato il denaro! Luglio 1920, 6 milioni e mezzo di dollari, 20.000 depositanti, in totale dall'inizio 30.000 investitori e 9.6 milioni di dollari. Nella casa di Lexington, la stanza da letto, la notte. Ti sei ritratto? Di nuovo? È quello che mi hanno insegnato. Chi te lo ha insegnato? Una professionista a Parma. Lei mi ha insegnato tutto. Lei mi ha detto, ritraiti e non avrai mai problemi. C'è un'anima in questo corpo? In questa macchina? O solo un motore? C'è almeno uno spirito? Un alito? C'è forse solo un polmone vuoto? Come ex direttore, noi siamo fieri a nome della Hanover Trust Company di salutare il nostro principale azionista, il nostro direttore, la colonna vertebrale della nostra banca. È uno dei primi bostoniani per la fortuna e la gloria. Charles Ponzi, Nasdrovia! Non sono un uomo da discorsi, sono un uomo di azione e di cuore. Ed è col cuore che voglio rispondere allo splendido onore che voi mi fate questa sera. Mamma, dammi 100 lire che in America voglio andare. 100 lire te le do, ma in America no, no, no. 100 lire te le do, ma in America no, no, no. I suoi fratelli alla bravo, finestra. Bravo Charles, davvero molto bene, molto inatteso, molto malinconico. Via il conto, datemi il conto, the bill. Oh no Charles, lei è il nostro ospite, un banchetto in suo onore e la banca che paga. Alla banca sono io la banca. Quanto? 640 dollari? Eccoli qui, pagato. Bella serata d'estate, mi piace quando fa caldo la notte. È la sua mossa, signore. È vero che non ricominceremo? Ricominceremo, Lucy Meli, ma per il momento rimborsiamo. Come Ponzi si ferma? Come Ponzi si ferma? Ponzi si ferma? E non ricomincerà? Non ricomincerà! Ricomincerà! Non ricomincerà! Ponzi si ferma! Ponzi, non fermarti! Ponzi, non fermarti! Non fermarti, Ponzi! Lei dovrebbe farsi vedere. Hanno bisogno di vederla. Questo non gli impedisce di ritirare. Ritirano, la vedono, ridepositano, ritirano, ridepositano. Non cerchi di capire la folla. Ponzi, Ponzi, Ponzi! I banchieri non capiscono come faccio a garantire il 50% di interessi. È solo che, contrariamente a loro, non tengo tutto per me. Io redistribuisco. Se voi sapeste quello che loro si mettono in tasca alle spalle del cittadino. Ora, cosa vuole il cittadino? Essere libero e non essere depredato, godere dei suoi investimenti senza essere derubato. Bere un po' d'alcol per svagarsi dopo una giornata di fatica. Ecco quel che i banchieri e i politici gli impediscono di fare. Non è impossibile che dia prossimamente il mio supporto a un certo candidato che potrebbe far cadere l'insopportabile legge del proibizionismo! Ponzi! Ponzi! Ponzi! Post! Boston Post! Per coprire la somma di 8 milioni di dollari corrispondenti agli attivi della società del signor Ponzi servirebbero almeno 160 milioni di cedola di risposta internazionale. Ora, l'Unione Postale Universale ci ha appena assicurato dopo l'indagine che ne circolavano solo 27.000 negli Stati Uniti e un po' meno in Italia. Siamo assai lontani dalla cifra. Signore, i prelievi si accentuano. Riusciremo a coprirli? Sì, Lucy Meli. Le cose andrebbero meglio se il processo Daniels non mi avesse congelato 5 conti bancari. Ma abbiamo sempre di che coprire. 31 luglio 1920. 440.000 dollari che escono. Più di 1 milione a settimana. Ricompro le cedole della Security Exchange Company al 90% del loro valore. È meglio di niente. Vendo. Lunedì 2 agosto 1920. 127.000 dollari che escono. Lei sta con i rossi? Lei è un agente sovietico? Lei lavora per Lenin e Trotsky? Lei è un bolscevico? Lei ha messo a punto un piano destinato a finanziare la Russia sovietica? E che al tempo stesso rovini le banche e le istituzioni finanziarie americane? E questo chi lo crede? Persona altolocata a Washington. Mi resta 1,5 milioni alla Novel Trust. Lei non potrà toccarli prima di 30 giorni. E il controllore Abbott ha messo la Hanover Trust sotto tutela per attivi viziati generati da investimenti azzardati. Chiede un rapporto quotidiano delle entrate e delle uscite. Oltre alle allusioni, alle affermazioni, alle insinuazioni, Charles Ponzi è mio marito. Gli ho giurato fedeltà, so che è onesto, siamo stati poveri e so che ha guadagnato i suoi soldi senza commettere nulla di illegale. Sono ancora il maggior cliente della Novel Trust. Ci sono 5 milioni nelle cassette. Li prendo in prestito. Me li lasci prendere un'ora e in un'ora glieli riporto. Non conoscevo questo tipo di operazione. Altrimenti chiudo il mio conto e la Novel Trust affonda. Il problema è che non possiamo più far uscire nulla dalla Novel Trust. Il controllore Abbott ha ordinato la chiusura. Ma il controllore Abbott non ha un simile potere. No, ma il governatore Coolidge lo ha. E lui ha trasmesso l'ordine in persona al controllore Hubbard. Revisione. Giovedì 12 agosto 1920. È il giorno della revisione, signore. Nessuno ritira più niente. Aspettano per riprendere delle note. Post! Boston Post! Ponzi, alias Bianchi, immischiato nello scandalo della banca canadese Zarossi nel 1908. Non sono io. Bianchi non sono io, molto semplice, non sono io. Post, Boston Post, 2 anni di prigione al penitenziario di San Vincent de Paul per malversazione finanziaria. Nella mia casa di Lexington. Dove è finito il tuo sorriso? Il tuo viso? Dove sono finiti i tuoi occhi? Posso battermi senza un braccio, senza una gamba e anche senza occhi, ma non posso battermi con il cuore pieno di melma. Povera Rose. Suo marito, il Cavaliere Bianco, è ammuffito in prigione. Non voleva che lei lo sapesse, ma lei lo sapeva. Lo sapeva ancor prima che lui fosse suo marito. Lei lo ha sempre saputo. Nell'ufficio del controllore Abbott. La revisione condotta dal nostro esperto Pride rivela un debito di... Pride? 4 milioni di dollari. È falso, vi siete sbagliati. No, di certo. sono in attivo di almeno 2,5 milioni. No, 4 milioni sotto. Lei riconosce, visto che vi si è impegnato, i risultati di questa revisione, signor Ponci? C'è un errore. Ma sì, accetto i risultati della revisione. Dichiarati colpevole, te ne supplico, colpevole. Mai. Altrimenti avrai il massimo a quello che ha detto l'avvocato. Dichiarati colpevole, dichiarati colpevole, dichiarati colpevole. Mai. Al processo. Charles Ponzi. Colpevole, colpevole, colpevole. Mi dichiaro... In nome di Dio, colpevole, colpevole, colpevole. Colpevole. Sia ringraziato il cielo. Condannato a 5 anni di carcere. Bravo, bravo. Giustizia, giustizia, bravo. Oh, figlio mio maledetto. Somigliava troppo a una fregatura per non essere una fregatura. Una vera fregatura deve somigliare a una fregatura. Altrimenti la gente non ci sta se somiglia a una fregatura. La gente ci sta. La gente è attratta dall'odore della fregatura se sa di fregatura. E ci sta. Altrimenti non ci sta. È così. E non sappiamo perché. Io con una palla al piede rompo dei sassi con una mazza. I miei impiegati condannati, complici. Ho sempre investito il mio stipendio nella Security Exchange Company e anche risparmi dei miei genitori. 1922, secondo processo. Una promessa di profitto non è un crimine. Le circostanze cambiano e rompono le condizioni della promessa. 2 anni di prigione. 1924, liberato. 1925, terzo processo. Gli Stati Uniti d'America contro Charles Ponzi. 7 anni di prigione. Mi appello a questa condanna. L'appello ha effetto sospensivo della condanna. Qualche mese di condizionale in Florida con Rose. Questa è la volta buona. Compro 100 ettari attorno a Jacksonville, $40 l'ettaro, divido ogni ettaro in 23 lotti, vendo ogni lotto a $10, l'ettaro mi rende 500 volte la mia posta, garantisca agli acquirenti gli interessi di... Un anno di prigione per aver infranto le leggi federali della Florida. Non tornerò in prigione. Non tornerò in prigione. Scapperò, cambierò nome, cambierò faccia, mi imbarcherò. Oh, parlerò troppo, mi farò acchiappare mentre mia madre ritornerà a casa sua, lì dove lei vuole morire. Vivrò gli anni del grande crack in prigione, rilasciato sulla parola. Non prima del 1934. Non ho nazionalità. Espulso al ritorno al paese. Poi vengo raccomandato da Mussolini. Mi occupo della linea aerea Roma-Rio, Rio-Roma, Roma-Rio. Sottraggo del denaro del passaggio. Mi faccio dimenticare in Brasile. Sono sempre in corrispondenza con Rose. Un ospedale della carità a Rio de Janeiro, Brasile. Ponzi è sdraiato in un letto. Alla sua sinistra un malato tossisce. Alla sua destra un altro fissa il soffitto in silenzio. Rumore di mosche. 1941. Sei sposato? In un certo senso sì. Con chi? Con te. Stai bene di salute? 1942. Non troppo male. Sono sopravvissuto a un attacco di cuore. La mia vista si è abbassata. E il tuo stomaco? Ah, guarito. Sono stato operato. La tua vista si abbassa? 1943. In realtà non vedo più quasi nulla. Hai soldi? Eh sì, $67. Che resteranno $67? Ah, a meno che non mi venga un'idea. Hai di che vivere tu? Lavoro in un locale notturno. Non ti sei risposata? 1944. No, e non ho fatto bambini dopo di te. Perché? Per religione. 1945. Ma perché tutto deve degradarsi? Perché non hai mai chiesto la nazionalità americana? Perché? A causa del tuo passato giudiziario? No. Allora perché? Perché non la volevo. Catena di Ponzi. Forma di frode nella quale le prospettive di guadagno di un'impresa fittizia sono promosse attraverso l'immediato pagamento di interessi ai primi investitori con i soldi dei successivi. Oxford English Dictionary. 1947. Mi sono battuto con coraggio, L'ho colpito a fondo il sistema, lì dove è più forte, più vulnerabile e più visibile, al ventre. Pensi qualche volta di tornare a Boston? Sì, qualche volta sì. Davvero? Sì, mi piacerebbe rivedere Boston. Davvero? È lì che vorrei morire, a Boston. Che stendano il mio corpo in un armadio preso da Daniels. Uscirai presto dall'ospedale? Per Natale. Sono in gran forma, passerò il Natale a casa. Qualche volta penso che tu potresti raggiungermi. Venire a stare da me. Te lo immagini? Quello che direbbe la gente. 1949. Ponzi muore nel suo letto dell'ospedale della Carità di Rio de Janeiro. Alla sua sinistra il malato tossisce. Alla sua destra un altro fissa il soffitto in silenzio. Sempre il rumore di mosche.